che ce l'ha come gli ombrelli. Caro Piscitelli dalla Calabria, buonasera Sardegna, ascolti qua Fabio. Non ho capito, Piscitelli, dimmi. Ha detto non c'hanno Piscitelli dalla Calabria. Non c'hanno Piscitelli, quello che ce l'ha accorta come gli ombrelli. Guarda cosa vuoi Piscita e Rocche, Attento Piscitelli. Ma che sono? Ciao Robert. Chi sei rimasto qua? A seduto a Flusci, a Mascia. Aspetta, abbassiamo che fosse toccato qua. Guarda se va bene adesso. Sì, adesso sì. Amato te e Maria. Perché è troppo forte, no? Non mi sono reso conto, ho toccato il pomellino. Va bene, adesso va bene. E me che è rimasto, ciao Antonio, ciao Claudio. Stavo ascoltando prima, poi mi sono notato che stavo facendo dei documenti. A tratti vi ho ascoltato. Carlo, Gianni, non so se è sceso la macchina, allora. Sembra di propagazione sotto, sono segnali altissimi. Rimasto, cosa ha detto? Mi ha detto, è rimasto Antonio, tu e poi Gianni è sceso dalla macchina e poi... Qui c'era anche Carlo. Aspetta di segnale che sta parlando sotto. Ok, quindi novità che si dice di bello? Hola. Niente, Carlo era con Gianni. Non so dove è andato. Eia, ok, vai Antonio. Beh, allora, stai toccando il DB qua. Sei un bel forte. Ma dove sei tu? È secondo te. Non sei a casa tu. È secondo te sono a casa. Ma lo so, cavolo, sei 9.35 qua. No, non sono a casa. Perché c'è questo bico, infatti dopo strano. Sei il più forte di tutti, non so perché, boh. Siamo attaccati, Anto. Ma tu a lavoro sei adesso? Cazzo, ma un pugno ce l'ho qua, sei più forte anche di Antonello. Cioè, sì, già sono qua, già. Vabbè, ma io sono più vicino di Antonello. Vabbè, lui forse come posizione è meglio della mia, però non so lui cosa, come si sta disponendo. Qua io sto uscendo con 10 va. È un bel forte, sì. Sicuramente, o mi prossima dall'antenna, non lo so, qualcosa c'è. Perché è cazzo chi deve la ginocchia in via, già lo sai dov'è. Non arrivi così forte. Oh cazzo, ho capito che fossero le 8 e un quarto, invece sono le 7 e un quarto. E faccio, ma com'è, c'è ancora lavoro? Antonio, invece è ancora presto, alle 7 e mezza finisci. Sappa, Claudio, avanti a te il mic. Ehi, Antonio, ancora lavoro, finisce più tardi. Datemi 10 minuti che c'ho roba al forno, veramente voi. Tanto adesso rientra anche Massimiliano, Carlo e Gianni. Cazzo, per chi c'ho Piscitelli, vera? La Calabria. Professor Piscitelli, no, noi quando eravamo ragazzini, quando uno diceva che era un bel convito, mi era professor Piscitelli. Lo sentivo basso, però lo sentivo. Stava arrivando qua. Buonasera Roberto. Ma tu sei Fra? Cosa Claudio, Roberto, Daniele sono. Daniele? No, non lo so, Franco, Franco, mi sono... Daniele, fatti sentire. E allora Roberto, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, adesso già ti ho ascoltato. Beh, no, mi sembrava la voce di Franco, un bel amplificato. Ha detto che è strano, non mi sembra lui. E beh, come mi ascolti a me? Forte e chiaro, Roberto. Tutto il rosso da queste parti. 9.20 Radio Super 5. No, tu sei pure troppo forte sei tu con quella radio, mi sei ben disotto. Chi è entrato? Anche Luca è entrato. Guarda adesso, che è passata appena. 1, 2, 3, più di questo non c'è più la radio, No, no, va benissimo. C'è sempre questo ola, 9.10, sa. Chi è avanti che dice ola? Mi sa che è francese, Roberto. Hola, hola. Mi ha Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Questo quando attacca lui mi spacca tutto, 9.60 arrivi, ma cosa cavolo c'hai tu? 20 sto uscendo. Quando sto uscendo? Si va. Sei in fondo scala, cioè arrivi superi 9.60, proprio smatte forse in fondo quando dai il picco. Aspire. Ah beh, te lo stesso segnale Roberto, è Carlo. Carlo è una bomba, io l'ho detto, adesso è passato lui il torre di controllo. Prima era Claudio, per un qualche mese sono passato io e poi adesso è passato Carlo che ha ammazzato tutti. Facciamo la posizione la paura, cioè da tutte le parti, anche Muro su lui, crepa tutti quanti. Perché io e Claudio eravamo più forti a Muro, su lui considerando che è più lontano di me, qualche centinaio di metri, arriva molto più forte di me. Non l'ho mai provato. Se non entra, se entra va Claudio da Muro. sento mai, se no ho fatto una prova a vedere qua che arrivava a Muros, non ne ho neanche un'idea. Ah, che tu ti fai sentire, ma una cosa arriva alle 9:10, un'altra cosa arriva alle 9:40, lui arriva alle 9:40, Claudio lo stesso, arrivano più forti che io con loro. Vabbè, dipende, io non ho tanta potenza, ho la potenza dell'apparecchio. Se attacco chi sa che chi va già a casa, vedi chi tratta, e come ti tratta? Solo che in occhi non si può fare. Guarda, io ce l'ho un bel apparecchietto, non ne ho mai usato in vita mia di amplificatori, per l'altro genere di frequenze ne ho acquistato uno, mi sembra che era 800 watt quello. Ho preso un adesso al volo. Di che cosa? Galaxy, quello di Gianni. Stavo ascoltando poco fa, stavo facendo cosa, te lo ripeto, forse non l'hai sentito, e mi sono assentato qualche minuto, ma qualche pezzo di conversazione l'ho sentita, di questo Saturnego, però alla fine l'hai preso tu. Sì, perché lui l'ha portato per metterglielo a posto e si è tuffato, ha detto che non ci vuole spendere più soldi, gli ha fatto pagare 40 euro solo per aprirglielo, eccetera. Alla fine magari è anche questione di pazienza, ma io l'ho preso perché l'ho visto proprio qualche giorno fa dove l'aveva portato lui e fazzi venire un pianto, come dicono a Sassari, nuovo a vedersi, ma di zecca è anche lucido. No, stai sbagliando, guarda, la quarantena l'ho pagata per comprare i pezzi, io Carlo, no, lui non mi ha fatto pagare niente. Allora avevo capito male io. Scusa già, io pensavo che avessi fatto pagare 40 a lui. No, lui no, non mi ha fatto pagare niente. Ma comari. Ma sono Gianni, ciao Gianni ecco. Il discorso sono dei tipi di lavori che molti non si prendono l'impegno, è come quando noi in ufficio molte volte portano roba vecchia, di cose da saldare, di cose da dico, ma fai prima a comprarlo nuovo, perché poi sono quei lavori che il lavoro ti costa più dell'apparato secondo cosa c'è da cambiare, a meno che uno per dire c'ha qualche pezzo di recupero e cose del genere, allora non gli conviene più magari riparare un televisore, un'altra cosa elettronica, questi apparati magari a corso della cosa dopo una settimana te ne sanno per un anno, non è una catena perché sono vecchi di età, però uno magari se lo tiene così come abbellimento, poi piano piano lo fa vedere a qualcuno, finché gli dura se lo tiene. Ah, ma ho aumentato di segnale adesso quasi 9:40, se cos'è combinato? Che strano. Gianni, ma tu sei in movimento? Gianni non c'è più, Claudio è andato a girare l'arrosto e di nuovo a te Carlo. Sì, Gianni forse magari è arrivato a casa sua perché era qua da me pochi minuti fa, capito? E niente, sicuramente sarà arrivato a casa sua, doveva fare il ponte nuovo e già arrivava subito, però già c'ha un bel impianto anche in macchina, ho visto Gianni. Ah, Gianni ha risposto adesso, ha salutato adesso, non è tu? Ci sono, stavo facendo scendere mio figlio Carlo un attimino dalla macchina e poi devo ritornare verso la tua zona, capito? Devo andare a prendere la mia compagna al lavoro. Già, già siamo qua Gianni, non ti preoccupare. Qualcosa mi ruba il segnale, lo sai. Carlo, fatti lasciare il mio numero da qualcuno che ti do un contatto per andare a sistemare quella radio. Magari ce l'ha anche Claudio, no? Quell'amico tuo di Morore. Però non so se c'ha il numero Claudio di quello lì. Bianco, per me un attimino, scusate. Va bene, Robe. Già al limite il tuo contatto me lo faccio dare da Claudio, già ce l'ha lui, c'è anche il mio numero, oppure ti manda il mio e poi ci sentiamo già volentieri. Io l'ho preso per cercare di metterlo a posto, perché ne vale la pena vederlo, è veramente bella quella radio. Non ti preoccupare, già la metti a posto con la radio, o da uno, già c'ho tanti amici, non ti preoccupare. Comunque, quando hai la possibilità dirgli a Claudio di darti il mio contatto, mi mandi un messaggio e poi ci sentiamo, ok? Grazie Massimiliano, sicuramente già me lo faccio dare, anche se entra dopo Claudio glielo dico, così poi se mi mandi il contatto di questa persona qua, a me non mi costa niente andare là e lasciargliela, si prende tutto il tempo che si deve prendere, se la mette a posto e quando è finita mi chiama. Poi io vi devo lasciare, là, ce la risentiamo alle prossime, ciao. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ci sentiamo? Sì, dai, sì, non ti preoccupare. Ciao. Già te la metti a posto. Tu spiegali tutti i problemi e poi lui già te la metti a posto, non ti preoccupare. Già te la fa andare la radio. Sicuramente se ha l'esperienza ne ha messo a posto altre, metterà a posto anche quella. E ne ha messo a posto del radio, poi via, lascia stare. Comunque, come tu senti qualcuno, fatti lasciare il mio contatto, mi mandi un messaggio, WhatsApp, quello che vuoi, e poi così io ti giro il contatto suo, lo senti, gli fai il mio nome, e poi tu ti metti direttamente d'accordo con lui. Eia, grazie Massimiliano, sicuramente lo farò appena possibile. Capa Rogero, va bene, ok, vai Gianni. Eia, adesso ho lasciato mio figlio e sono in direzione di nuovo di casa di Carlo. Dal Vialotto stai passando già. Eia, ma uscendo da Sassari 2. Ah, ho capito, io già fai in un attimo allora. Capa ragazzo, anda bene vera. Quindi Claudio non c'è, Roberto? Claudio mi sa che è andato a preparare qualcosa da mangiare. Roberto prima si è affacciato e forse ha detto che doveva rispondere a una telefonata e già si farà risentire. Poi non so chi ci sia, Natalino prima ho sentito, ci sei Natalì? Oh, io l'ho chiamato due o tre volte, Natalino non mi ha risposto. Prima era intervenuto, ma poi sono sceso io e non l'ho più sentito, pensavo fossi in ascolto. Comunque Carlo, sbagliate più poco fa, mi hai detto a sinistra e invece era a destra. Scendendo a destra, sì, hai ragione, ho sentito da sinistra e invece stavo pensando salendo, tu l'hai presa da su, dal canopoleno. Te l'ho detto davvero, ho detto strano, boh. A sinistra mi andavo non c'è. Poi ho guardato sul telefonino che andavo a sinistra. Ha forse sbagliato. Sì, non senza forza. Scusami già, la fretta, capito, mi ha fatto dire una cosa per un'altra. E poi mi dico, tu pure in casa penso di sì. Infatti ero giù, ho detto, strano, ho detto, dai, se era lì, a quest'ora doveva essere qua. La nuova, fagli fare quella elettronica. Sì, ma adesso fanno sempre quella, eh. È valida per le spazze e tutto quanto. Io l'ho fatta e con quella riesco anche a accedere all'IMSS senza lo SPID, capito? Carta di identità elettronica e c'ha il microchip, praticamente ti devi scaricare un'applicazione sul cellulare e tramite quell'applicazione dai l'autorizzazione ad accedere ai vari siti della pubblica amministrazione, da quello dell'IMSS al comune, se devi fare certificati, qualsiasi richiesta devi fare, accedi con la CIE, capito? Sì, sì, ho capito. Ora, mi sento strano, come se dopo quando mi fermo al quadrato me lo rego. Vedi propagazione, sotto si sente gente, ma non ho capito se sono francesi o qualche altra lingua, non arrivano bene di radio però. Sì, li sento anche io dalla macchina, immagina. Massimiliano, io e poi Claudio e Roberto si sono spostati, non so chi altro ci sia, Gianni. Io sento solo a te adesso, vediamo un po' se è rimasto qualcuno. Già, io già ti sento sempre, là, in mezzo un po' al QRM. Ma sono da tutt'altra parte della città, io in mezzo ai palazzi, sono al monte. Già a fondo scala. Vabbè, dipende dalle zone. Ascolta, io magari me ne passo a fare due passaggi in questa greca lì al 45, là, se c'è un po' di propagazione, ok? Massimiliano, ci sentiamo allora. Ehi, Carlo, fatti lasciare il mio contatto da Gianni o da qualcuno di là. loro che già ce l'hanno, e poi così ti giro il contatto a cui devi contattare, là, ok? Allora mi ne approfitto che c'è Gianni, dopo glielo chiedo per cortesia se me lo manda, e così si fa tutto. Grazie mille, alle prossime Massimiliano, se ci sei dopo ce la risentiamo, vai Gianni. Eia dai, va bene dai, non certo ce lo trovo il numero tuo Massimiliano, dovrei averlo su WhatsApp, dai. Ehi, non ti preoccupare, vabbè, mi faccio due passaggi di lì al 45, là, ok? Scappa. A dopo, ciao. Ciao, ciao. Gianni, ma tu quanti anni ce l'avevi questa radio? Penso, hai un 6 minuti. È ancora nuova, nuova. Ma io ritengo bene gli apparecchi, a parte che io così vanno trattati in effetti, perché i giorni scorsi ne avevo un altro di quelle radio, ma era in condizioni un po' peggiori esteticamente, capito? Magari a funzionare funzionava bene quella, però. Ma era riparata anche quella lì? Penso di sì, Antonello. Me l'ha lasciata una settimana, l'ho provata, però andava molto bene. Giù sei Gianni? No, sono esattamente quasi alla rotatoria. Ponte l'hai già fatto? Sì, sì. Io ti sento sempre forte, anche prima ti sentivo a fondo scala e adesso lo stesso. E sono convinto la domo tua. Ho capito, stavi passando in via degli astronauti adesso. No, qua sono alla rotatura, adesso via Luna e Sole sto andando. Ho capito, sembri dentro casa qua. Oh, vabbè, la vedi? Ah, tutto il dubbio, mi schiaccio. Vai. E quindi tutto a posto? Tutto a posto, Cla. Va bene, fammi sapere che cosa vuoi fare. Se posso darti una mano, ben volentieri, certo. Ho parlato prima con Massimiliano e mi ha detto quando puoi di girarmi il suo contatto, che così mi dà il contatto di quella persona che poi eventualmente lo metterà a posto. Ci passi davanti, quando vai a Bologna ci passi davanti. E infatti io glielo porterò anche subito. Che problema, che contatto vuoi? Quello di Massimiliano? E poi già me lo gira lui l'altro. Io ti giro quello di Massimiliano, lo telefono e proprio mettete d'accordo. Ok. Vabbè, ma se non la prendevi tu la prendevo io. In settimana la portavo dal vino. A tempo perso, ho detto te, quando c'è tempo falla. Tanto io c'ho l'altro, non c'è problema. Ho capito, anch'io non è che mi metto fretta, no? Quando gliela lascio e quando la vuole fare la fa, punto e basta. Quando fa tempo la fa piano e vede un po'. Ehi, vabbè, vabbè. Io glielo avevo dato, ma la 48 me l'aveva fatto nuovo nuovo. Molto bravo, c'ha pensamento, c'ha la passione, c'ha la documentazione, c'ha tutto. Va bene, dai, dopo ti faccio il contatto di Massimiliano. Nel frattempo mi allontano la radio perché sto preparando la cena. Ok, a dopo. A dopo, Cla. Con calma, non ci sono problemi. Mi con Gianni sono in radio. Tu me lo sentite Gianni? Già mi sente Claudio. Che bello. Ora, aspetta che mi devo regolare questo, se no vado in un altro canale. No, fai regola, tanto non c'è nessuno. Oh, oh, oh, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Ci ha fatto. Ecco, hai messo. Eia, come si sente? Sente. Aspetta, passo un po', 1, 2, 3, prova. Prima era troppo, si sentiva tre volte la voce, abbassalo un pochettino e magari va meglio. Guarda, 1, 2, 3, prova. Così va meglio, dai. sono troppo, guarda. 1, 2, 3, prova, cambio. Così va bene, va bene. Benissimo. Probabilmente spazzolandolo e facendolo ho toccato la regolazione. Può essere, ma già la, quella già si rimette subito a posto. Una manopola e basta, non ho niente di che capito. La base che hai tu da quanto è, Gianni? Quale base? Nettica. Da 22 mi pare. E più o meno è come la mia, capito? Solo che tu hai l'antenna quella alta. Anche io già ce la piazzo adesso l'antenna grande. È un'altra cosa, capito? Non è come avere un'antenna piccola, rende molto di più, Ma ci devo mettere qualcosa alla radio in macchina io, perché troppi pochi fatta. Questa va bene, questa qua io non ho messo niente, normale, ma come locale. Ha già quella 5 watt pieni, penso che ce li abbia. Questa qua? Yeah. Sì, ce li ha. Ma che ho sentito un break, a vedere chi è. Avanti break! Non so se riuscite, da più Marciato, California, buonasera. Buonasera, già ti sento Franco, dove sei a Fiume Santo? Sì che ti sento, forte e chiaro, c'è Gianni che è in zona forse Piazza Lesseni, vai Gianni se lo senti Franco. Pio Pio ma già l'ascolto, dai, ciao Fra, ciao, mi sentite. Ciao Gianni, ciao chiacchiere con c'era Claudio, però è andato a cucinare, siamo rimasti noi due adesso. Capito, roba grossa stai pescando Fra. Devo chiudere adesso perché è rientrata mia moglie e mi deve dire tante cosette belle. Ce la risentiamo, ciao Franco, ti lascio in compagnia di Gianni, ciao Gianni, magari se ci sei più tardi volentieri. Va bene, dai, sentiamo Carlo, ci sentiamo, avanti Franco. Buonasera, buonasera dalla città di Bari, Roberto al microfono. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Da località Fiume Santo, non so se mi ascolti in quelle coordinate. Io ti ascolto bene, non ho capito da dove moduli. Fiume Santo, vicino. Ma pescando stai? C'è un treme altissimo, puoi ripetere? Oh Fra, pescando stai? Località non si capisce il vino. Presto. Avanti. Sì. Ti ascolto ma proprio un livello QRM. Avanti break. C'era un altro da sotto che chiamava se non sbaglio. Ciao Mari, ciao Gianfranco, California, se mi senti. Sintino, mi ascolti, cambio. Madonna, Sintino in Sardegna, che bello. Sardegna, sì. Fantastico, sto vedendo adesso dov'è perché ricordavo di aver sentito la località ma non ricordavo precisamente dov'era. Complimenti, bello. La zona più bella della Sardegna. Sono rientrato comunque. Invece l'altro amico da dove chiama? Solli. Da Sassari, sempre Sardegna, l'isola più bella al mondo, meglio dei Caraibi. Cavolo, allora propagazione favorevole per la Sardegna oggi, mo bellissimo. Ti ascolto, sei 5-9 qua, ciao Roberto, va. Sì, sento l'amico, 9 più 10 abbondanti, Roberto qua da questa parte, con chi è dall'altra? Ma lì troppo in fretta Roberto, non si comprende nulla, va piano. Io purtroppo, l'amico di Sassari lo ascolto ancora, non ricordo i vostri nomi però. Sono Claudio Sparviero dalla città di Sassari. Claudio Sparviero. salutiamo sempre il Nord Italia. Come si chiama l'amico qua? Non so, come ti chiami tu? Io Roberto della città di Bari. Anche qua c'è Roberto della città di Sassari, non so se mi ascolti, carissimo Roberto, avanti. Mi comprendi? No, io sono normale, che... avanti di nuovo Roberto. Sì, no, dicevo io, sì, c'è un molto QRM, però quando mi arrivi bene ti ascolto Nuova Radio 5, ma poi ogni tanto scende il segnale. Io sto uscendo con un semplice President Jackson, 10 watt e una mezz'onda, niente di che. No, ti ascolto bene, se no è qua il segnale, modulazione perfetta, chiara, complimenti. Ok, di nuovo chi tocca, io sono entrato con la gamba tesa, come si dice. Non so se c'è anche Carlo, Gianni, c'è qualche altro che vuole parlare con Roberto. Carlo si è assentato perché doveva rientrare la moglie, quindi stava aspettando. Cappa, vediamo un po' come mi ascoltate a me qua. Temperatura com'è? Qui è salita molto, eh? Qua siamo 27-30 gradi oggi. Tutti pompando, state. Sotto. Ah, il tattalino. Radio 3-4 con il tattalino. Ehi, già. Attenzione amico. Ascoltate bravi. Gianni, mi hai sentito? Più che buona. Sono sentito a Carlo come lo ascoltano a lunga distanza, perché proprio si dice che si fanno a lunga distanza. Temari, ascoltate va. Non so se c'è Carlo, ci sei. Sta bene questa gente come va lì quel di Bari. Di nuovo a te lo metto da Bari. Ok, qui è Bari, stazione. Comodugno, Riccardo da Polignano a Mare, da dove modulate voi K? Ciao Riccardo, 9:10 questo passaggio, Sassari, città di Sassari. Roberto qua, compagnia di Claudio, Gianni, Natalino e compagnia. Di nuovo a te Riccardo. Sassari, arrivati fortissimo, 5 minuti fa in condizioni paurose. Ho chiamato il corrispondente Roberto da Riccardo. L'ultimo passaggio, l'ultimo amico, credo Claudio, mi arriva molto bene. Sì, sono io, ma c'è un altro corrispondente, Riccardo, da dove stai trasmettendo? Borinacque, Bernacque, Domenico. Polignano Mare, molto bene Riccardo, ciao, buonasera, ben ascoltato, Claudio Sparviero dalla città di Sassari, c'è anche la Puglia, c'è la città di Bari, vediamo un po' se vi sentite, Roberto vai. Ovviamente non ci sentiamo, io l'amico di Polignano che sarà una quarantina di chilometri da me, non lo ascolto minimamente. È la città di Domenico Modugno. Esatto. Aspettatevi fortissimo, 9:10, ti arrivo bene io Roberto? Sì, lo stesso. Bene, 140 della Kenwood, microfono MC60, l'antenna è una verticale della Mantova. Vabbè, tutta roba buona allora, eh? Siamo radioamatori, ci difendiamo bene, questo è il baracchino a sintonia continua. Ti passo nuovamente a Roberto, poi vai c'è anche Franco California, Roberto. Ciao di nuovo Roberto da Bari, 9:5, picchi di 9:10, ti ascolto molto bene di modulazione, complimenti, veramente è una bella radio. Ok, ti rilascio a te il mic, invece se mi hai ascoltato. Sì, ti ho ascoltato. Leggermente più basso dell'altro amico, però ti ho ascoltato. Sì, no, vi ringrazio perché questo è un apparecchio molto. Comunque qui Riccardo da Polignano, che ho comprato, sto portando uno sopra l'altro della Siena, però fa il suo dovere. Microfono qui da Polignano, c'è Riccardo che passa sopra Roberto, uno sopra l'altro. Di nuovo a te, chi c'è? Natalina? Ne sono occupato, per Roberto e Riccardo. Franco, sei a Fientino? No, non ci sono problemi, è una grande arrivi. Franco, sei a Fientino? Non caricare Carina, Romero, Camper, sì. Cavolo, complimenti, 9:5, stai andando una bomba. Pensavo che fossi in varie zone a carica, zone così. Vabbè, una bomba perché sto qui a farlo guadagnare, attaccato, Roberto. Mi ascolto bene lì da quelle parti. Ah, me ne faccio da pensare col Camper, arriva a farmi un po' di rifiuti. No, adesso se mi ascolti bene, mi tiri fuori bene. Sì, 5 ore 10, ti arriviamo. No, no, sta andando veramente bene. Senta, facciamo riprendere l'amico Riccardo da Pomigliano a Mare, avanti. Ok, ditemi i vostri nomi nominativi per cortesia, Qui è Riccardo, stazione Altaire, Polignano a Mare Centro. Se scrivete Riccardo Polignano, radioamatore CB, mi trovate anche su internet, ok? Mi dovete ripetere per cortesia le sigle e i nomi, ok? Speriamo di ricollegarci ancora con l'estate che arriva. Avanti ancora la Sardegna da stazione Altaire. O Altair, come volete, il nome del calciatore Riccardo Napoligliano, dove nacque Domenico Modugno. Se prendo io, dai, quindi sei radioamatore anche tu, dai, e qua ce ne sono due, uno sono io e uno l'altro è Claudio. Roberto, comunque, c'è da questa parte, c'è Claudio, c'è Natalino e Franco. Rilanciamo l'altro radioamatore, Claudio, avanti. Riccardo, mi hai rotto lo smitter, 59 più 20 mi hai fatto come passaggio. Il mio nome è Claudio, è nominativo qua in 3x9, Claudio Sparviero, a te Riccardo. Ok, Claudio, bene, sì, quindi siamo anche radioamatori, io quando posso trasmetto in 40 metri in AM a fine banda, e a volte anche in 80, ma ultimamente ho poco tempo a disposizione. Stasera ho collegato anche Roma, incredibile, in banda laterale, un po' più in basso. Bene, Sparviero Claudio, ti riascolto benissimo, tutti quanti, con segnali abbastanza forte. Io sto uscendo con un centinaio di watt e una 5 ottavi, tutto qui, K. Io sto andando con un TS-140 della Kenwood, il microfono MC-60, i watt sono circa 50 modulati, e circa una cinquantina modulati, 30 di portante, 50 modulati. Il cambio per Roberto in Bari, avanti Roberto. Amico Riccardo di Polignano, mi dispiace, non riesco a rimanere molto molto alto. Attenzione, non so se hai passato a me, non sono Roberto, ma Riccardo, dal QTH Polignano a Mare, 33 km a sud-est di Bari, come dico sempre, dove nacque Domenico Modugno, avanti. No, no, sta parlando Roberto da Bari, mi sentite voi, Riccardo? Sì, ma non ti senti con Riccardo, Roberto? Riccardo, io ho rilanciato a Roberto di Bari, ma non ti ascolta. No, evidentemente non lo so, è strano, dovrei ascoltarlo perché siamo a 30 km. Roberto da Bari, ascolti Polignano? No, ho già confermato che non ti ascolta Riccardo, non vi sentite, anche se siete vicini, lo skip è molto molto lungo, quindi non vi sentite. Il cambio per Franco in Marra Mobile, avanti Franco. Sì, QSL, sì, ok, beh, arrivate tutti bene, propagazione molto buona con la Sardegna, direi, è abbastanza stabile. Non mi sono distratto un attimo, dovresti ripetermi poi al prossimo passaggio il nominativo e il nome. Ok, passo a te Claudio Sparviero, a te il micro qui da stazione Altaire, Riccardo Polignano Bari. Sì, QSL, Riccardo Polignano Bari, molto bene, arrivi fortissimo stasera, molto molto bene. Ok, il cambio per Roberto qua a Sassari, avanti Roberto. Sì, sì, l'ascolto molto bene, sia Riccardo che l'altro amico Roberto di Bari, leggermente più basso, ma superi 9.15 dalle mie parti. Complimenti Riccardo, non ha detto la radio che sta utilizzando, non l'ho capito, almeno se l'hai detto non sono stato attento. Di nuovo a te Riccardo. Ah, è un CB modificato in questo momento, un semi fatto in casa, ok? Il lineare è un lineare da un centinaio di watt e l'antenna è una 5 ottavi senza radiali in questo momento. Complimenti per tutto, veramente bene il segnale e ottima la modulazione. Ok, ci rilancio l'amico Franco, vediamo se mi sta ascoltando, è l'unico male in condizioni precarie, anche se c'ha qualcosa sotto. Di nuovo a te Franco per gli amici di Bari e di Pomigliano a Mare. Ok, Ok, sì sì, arriva anche tu abbastanza bene, arriva anche tu abbastanza bene. Break da Trani. Non ascolto qui da Polignano. Registrato il break. Tardo, Altair, Polignano Centro. Cazzo che arrivi ore più 10, la stazione Papa Mike da Trani, buonasera. Sì, avanti la stazione di Trani, vuol dire anche il nome di battesimo, eventualmente Roberto da questa parte, Cutiaca Sassari, compagnia di Claudio Sparviero, sempre Sassari, Gianni Natalino, di nuovo a te l'amico di Trani, e vi dirà il nome. Cappa, mio nome è Paolo, stazione Papa Mike, mio nome è Paolo. Arrivate sparati, forse, 9 più 5, 9 più 10 qui a Trani in Puglia, Veramente bene, bene, bene, ti rimetto il mic. Sì, grazie. Ti lancio Claudio, torre di controllo, avanti Claudio. Roberto, fammi sapere se mi arriva, se mi sente Gianfranco, Gianfranco California. Fai favore, fammi sapere se mi sente. Ma chi sei Carlo? Attento Roberto, mi ascolti? Sì, ma chi sei Carlo, non ho capito. Giovanni, Giovanni, dimmi se mi sente Gianfranco California. Adesso te lo dico, avanti Franco, l'ha ascoltato Giovanni da Patamon. Arrivate forte, vediamo se ascolta a me la parabolica, Trani mi ascolti? Anche tu arrivi molto bene qua, Parlate uno per volta. Circa una ventina di chilometri da Sassari. California, ciao Giovanni, ti ascolto. Commetti che mi sentono con un batter. Scusate, volevo far parlare a Claudio, torre di controllo che c'è la postazione migliore. Avanti Claudio per l'amico di Trani. Sì, sì, QSL, dai, QSL, ok. Io vi devo lasciare però perché devo preparare qua la cena. Quindi saluto Riccardo, saluto Roberto in Bari, saluto anche Roberto Sassari, Franco, Giovanni, vi saluto tutti, un abbraccio a tutti, vi devo lasciare. Il cambio per Roberto in Bari, un saluto a tutti da Claudio Sparviero in Sassari, cambio. Ciao Claudio, ti ascolto ancora perfettamente, è stato un piacere parlare con te e con tutti gli amici della Sardegna e un saluto anche all'amico di Trani che io ascolto, in questo caso ascolto, non so se lui mi ascolta, però io lo ascolto. Ciao ancora, alla prossima. Claudio, mandami il contatto. Cazzo, sta a dire un saluto da Trani, dall'amico Paolo di Trani, vi saluto tutti quanti. Ripeto, arrivate forti tutti quanti, complimenti e grazie per il curso, queste ore che abbiamo fatto. Ciao Paolo di Trani, non so se mi ascolti qua, Natalino da Sassari. C'è anche l'altro amico di Bari, stavo ascoltando, però purtroppo poco fa non potevo entrare. Salutoni dalla città di Sassari, Natalino Alfa 1 da questa parte. Cappa Natalino, un saluto. Natalino qui riprende Riccardo. Sono Paolo, andate avanti con gli amici di grazie anche a te Riccardo, vai, ci sentiamo prossimamente, stanno a pari condizioni, ok, di nuovo chi tocca per il rapporto, vediamo c'è Trani e Paolo da Trani. Magari mi sentono con un vate anche a me, ciao. Sì, c'è propagazione, tanto io non ne uso potenza, già lo sapete, no, volevo sentire a Carlo, se riesce, visto che c'è la posizione migliore, come arriva Carlo, avanti Carlo per gli amici di Trani. Buonasera Trani, Carlo qua, mi sentite? Prima sentivo Riccardo da Polignano a Mare, mi sa, e ho sentito anche Paolo da Trani. Cappa, avanti, la stazione Papa Mike di Trani, 9 più 10, complimenti. Attenzione Trani, ci ascolti doppio run dalla barra mobile. Roberto, scommetti che mi sentono con un vate a Trani. Penso di sì Giulio, io ti ascolto, non ce la sbagliare. Ok. Attento Trani, ascolti giù. Cappa di copio, Veramente è una bella propagazione, tutti insieme scoppiata. Ti rimetti il mic. Ok l'amico dai, io sto usando solo un watt di potenza, è solo un watt, un microfono malissimo. Va bene, ti ringrazio e vi ascolto, riprendi pure e non riprendo. Riprendi ancora l'amico di Trani. Ciao Trapani, ciao Roberto e ciao Riccardo, ciao anche a Giovanni. Hello. sulla luna io passerà. Si ne farà della propagazione. Sento Roberto, ci sei sempre? Sta preparando uno sopra l'altro, non si capisce niente. Anche io vado in Correttità, saluto gli amici di Bari, di Trani e di Pomigliano a Mare. Dai, Correttità Roberto, sempre Sassari, città di Sassari. Avanti Natalino, io interrompo e devo fare altre cose. Ciao, ciao a tutti. Ciao Roberto, ciao, alle prossime. Saluto a tutti, un abbraccio uniforme, ciao ciao. Ciao, troppe stazioni una sull'altra. E io ia. Tutti, cosa vuoi tuo casino? Trani, quello, quell'altro. Ciao, buonasera. Un saluto anche dalla città di Bari. Ciao, ciao, ciao. Arrivi bene anche te. Santiago 8-5. Vieni avanti, sempre Trani d'ascolto. Stiamo sul gambo volante. Ma mi coprono Eugenio. Ciao Marconi, buonasera. Saluto a Bari. C'è tutta sull'Italia, Eugenio, passa la fatica. Addirittura. Saluto Giulio, buonasera Giulio. Arrivano più 30. Ciao Carlo Natalino. Ciao Carlo, ciao. Sono rimasto in ascolto, dai. No, me l'ha pigliato, con un vaccio solamente mi sentono a Trani. Va bene, dai. Ciao, ciao Giulio, anche a te. Ciao, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Natali? Ciao Marco, ciao. Funziona? Questo è l'adattatore. Cava, e te credo che funziona. Insomma, non riesco a parlare stasera, buonasera. Ciao Marco, c'è Gianni Lupio Luma e io nel radio. Sto cercando di entrare. Ciao Eugenio. Meno male, buonasera a tutti. Sei piccolo. Vai a piccolo e piccolo, se di voi troppo veloce a schiacciare. Eugenio, vieni avanti, Trani ti ascolta. Buonasera Trani, ben sentito dalla città di Porto Torres qua a Nord Sardegna, buonasera. Cappa, ciao, buonasera, un abbraccio e un saluto da Trani. Oh, stasera arrivate voi tutti quanti, complimenti, Sembrate che state qui in Puglia. Attenzione Trani, se ascolti il doppio run dalla barra mobile. 9 più 30, Radio Super 5. Prova già. Attenzione Trani, se ascolti il doppio run dalla barra mobile, cambio. Attenzione Giovanni di Platanona, ci sei? Ci sono, e saluto tutti quanti, compreso Eugenio di Porto Torres. Se volevo sapere se mi ascolta Franco California, chi è che mi può fare un passaggio con lui? E se ti ascolta ti risponde, ma ti è piazzato l'antenna, perché tu non riuscivo a sentirti? Già 3-4 minuti. Ah, ok. Ma non sentiti? Comunque va benissimo. Stavo fatto va benissimo, dai. Finalmente riesco a sentirti bene. E anche tu qua arrivi bene. Ma tu a Franco lo senti sempre? A chi? A California, lo senti sempre? Allora, Franco non lo so se lo sento, ho sentito piccolino, ha già nido più rum. Franco, attento, Franco. Come va, mi hai sentito piccolino? Milomi, ciao già, buonasera. Buonasera, dai, perché ero in mezzo ai palazzi, dai. Adesso sono sempre in paramobile, ma mi sono fermato 5 minuti, dai, perché ho sentito propagazione e mi sono fermato. Perché sei piccolo e nero. Eia. Andà bene. Ciao Gianni, anche qua arrivi basso, comunque. Cava. Vabbè, sono in macchina, Cosa apprendi? Da me il fondo scala. Ti ascolta. E l'amico Paolo da Trani, papà Mike da Trani che vi aspetta. Semente tutti quanti, arrivati fortissimi, prego. Paolo Trani, Copi, Marco Sassari, 10 watt, nudi e crudi. Cassa, mi arrivi 7-8, Santiago 5, 7-8 Santiago. K58 anche per te, buona serata dalla città di Sassari. Gianni, riprova. Ehi, dai, Trani, mi ascolti, dai, doppio run dalla città di Sassari, vediamo un po' se mi ascolti dalla barra mobile. Nulla, ma sei a Piazza Leceni? No, sono vicino a casa. Ma è strano, pure dovrebbe imbattere, propagazione è strepitosa. Carlo, riprendi. Buonasera, vediamo se mi sente a me, l'amico di Trani, buonasera. Carlo da questa parte, Paolo se non sbaglio, mi confermi? Per immagine Marco, mi ha sentito quando sono fatto. Miracoli della propagazione. Io praticamente sto usando 10 watt dell'apparato, quindi a 12 però il filtro, quindi me ne mangia un po'. 10 watt reali, ecco. Riprendi di nuovo Carlo. Ciao Giulio, ciao. Attenzione l'amico di Trano e di Trani, se ascolti Carlo qua da sempre dalla città di Sassari. Se ne c'è già vuol dire la propagazione. Magari ha cambiato canale. Carlo, attento, buonasera, mi ascolti? Ciao Giovanni, già ti ho sentito anche la prima, solo che oggi c'è troppa gente in ruota, anche gli amici della Puglia, per cui ogni tanto salta qualcosa, ci perdiamo. Avanti Giovanni. Niente, volevo sapere se mi sentiva Gianfranco, tutto lì. Sì, ti ha anche risposto, Giovanni, solo che ha chiuso perché sta pescando, alle saline. Dunque mi sentiva? Signore. Grazie, grazie Carlo, grazie. Buonasera Carlo. Sera, chi è? Franco, non so se mi ascolti, no. C'è un QRM. Franco, non so. Sì, Franco, ti ascolto, solo che c'è molta cagnara oggi, quindi QRM è alto, però ti ascolto bene. Franco, sì, sento che c'è gente da fuori. Arriva la bomba, arrivano. Vabbè, niente di particolare. Comunque, ciao Carlo, ho sentito Giovanni, ho sentito. Mi sembra Gianni Doppiolù, c'era, e poi non mi ricordo altro. Ciao Franco, buonasera, buona serata. Ciao Giovanni. Allora Carlo. Ora mi qua facendo quattro chiacchiere, c'è un po' di propagazione verso la Puglia, Bari, Trani e quella zona là, insomma. Ci dovrebbe essere Giulio anche se non ha chiuso. C'è Natalino e Gianni Doppio Rum. Avanti Natalino. Ciao Franco. Ti arriverò bassino. Comunque sto usando l'omolocane. Forse avete parlato in due, in tre, in quattro, tutti assieme. Vabbè, se non mi ha sentito pazienza. Ciao Fra, allora chi chiama è saturissimo, saturissimo Radio 1, incomprensibile. Infatti, ciao Marco, buonasera. Infatti è un messaggio, non si capisce la modulazione, non si capisce, l'amico mi sta chiamando da fuori. Come vai? Ciao Fra. Eugenio. Ciao, come va? A posto? Sì, più o meno, è tutto ok. Più o meno, mamma mia. Dai, dai, tranquilli, tranquilli, cosa vuoi? Ti ho detto più o meno così, però stiamo bene, bene. Andate, dai, andate. Marcoli, che siamo a posto da sentirci. C'è uno che chiama, che è saturo, quando parla Franco passa di poco, quando parli tu e siete uguali e ti disturba un po'. Io non sento sto qua. Tu hai messo un macello. Sono pure liscio io, mi copriranno anche a me. Ma negativo, io qua ti ascolto benissimo, Marco. Come c'è di bello oggi la televisione, ragazzi? Mi sono uscito per fare al volo, mi sto rilassando. Mi ha girato un bel ora, ha girato il bel universario. Ma non mi dite Grande Fratello, non mi dite i suoi famosi, non mi dite una cosa lì, non mi incazzo. Lascia perdere, dove guardo è quella roba. Che, come hai detto tu, lo già è così. per salutare perché devo chiudere. Ciao Marco, Natalino, Giovanni, Gianni, Franco, spero di non dimenticare nessuno, se mi sentono anche tutti gli altri, ce la risentiamo se ci siete più tardi dopo cena. Ciao Carle, buonasera. Ciao Franco, buonasera, buonasera. Ci sentiamo alle prossime, non sapevo che c'era anche Natalino, probabilmente è entrato quando c'era Cagnara. Ciao Natalino comunque. Ciao Carlo, ciao. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao. Natalino ancora un sacco tanto in mano. Negativo. Sta aspettando il supporto logistico. Morale. No, più che altro logistico. Io non lo posso aiutare perché con le altezze non vado d'accordo, se no una mano gliel'avrei data. Posso stare in basso però, me l'ho piantato a terra. Natalino. Dimmi. Ehi, dell'antenna, chiedeva a Eugenio dell'antenna se l'avevi piazzata. E gli ho detto che stai aspettando supporto logistico. L'ho detto, non lo salveremo. Così Natalino di poche parole. Ha cagato al computer. Cosa vuole Coca-Cola? Ha cagato al computer. Non ho sentito Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, ragazzi. Hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola, Coca-Cola, this is Chris. Oh, my friend, tu dare a me mano, io le getto in mano, Dio ti benedica. Oh, fratello, io spaccare bottiglia, ma sono famiglia, tu dare a me monetina. Mi ricordava il personaggio del Rodo di 105, Zlatan. E via, come il cacciatore. Giovanni Passamona, riprendi. Aspetta, Giovanni Passamona, riprendi. Vediamo se mi ascoltano da qua, là. E ho della cacciuria. Ma ti ho sentito Mario di Porto adesso? No, e io ho una lì, non intendo più. Che strano. Non ci avrà buttato via tutto. Propagazione, non ce n'è più. Cosa, già? No, non ci ha buttato niente, c'è un contatto nuovo. Già, dimmi. Ho detto, di propagazione non ce n'è più, buonasera. Marco Mari, buonasera. Ho detto, la propagazione è via andata. Via, meno male. Volevo provare a casa, perché dalla macchina non mi sentivano, perché le belle palate. Forse hanno fatto questa greca già, perché c'è molto cene di fondo, eh. Ah, ciao Marco. Ho capito, dai. Va bene. C'è problema. Oh già, secondo il tuo modesto parere, questo è il 7009 CRT e gli ho messo il microfono KPO, messo a metà, con l'adattatore da RJ45 a 4 poli, com'è? Distanza 5 e 6 dita. La radio è chiarissima Marco, la radio sei tu in verticale, però se puoi aumentarla per vedere l'amplificazione, perché adesso l'amplificazione non ce n'è più di tanto. Vediamo a tutta manetta, stessa distanza mic tutta manetta, il mic gain della radio tutta manetta, sto parlando però piano, normale, come se parlassi in verticale, vedi un po' se ha migliorato? K, così sì, così va bene. Se vuoi a prima Marco, in distanza ti posso dire se vuoi a prima, però si sente amplificato. Credo che questa radio abbia il limitatore, cioè c'hai la regolazione della modulazione dentro tramite trimmer, però c'è anche il limitatore, il trimmer del limitatore, se tu non apri anche quello più di tanto non te la fa andare, però vedo che lo smitter sale dai picchi, quindi già andrà bene. Franco riprendi, Bianco per me vorrà farmi il caffè. Attenzione se ascoltate Taranto. Attento Taranto, se ascolti l'isola sarda, cambio, buonasera. Ah, in AM è ancora più bello. Prima mi sono sentito qualcuno in Unifor, si era bravo. Buonasera, ben sentito, Fabrizio in Taranto. Ciao Fabrizio, Gianni doppio rum da questa parte, QTH Sassari, Nord Sardegna. Io da questa parte, buonasera. Sa perché mi parli sopra? Buonasera, comunque ben sentiti, eh. Adesso non so chi mi ha fatto entrare, vi siete un po' sovramodulati, causa propagazione. Comunque buonasera, 7-3 Fabrizio in Taranto, avanti chi mi ha fatto entrare. Cappa, dai. La stazione Gianni Doppio Run di Sassari, e qualcuno è Jack lo svelto, non fa finire di parlare. No, avete ripreso assieme. Cava cava, sì, ma se lo fate entrare io gli stavo dicendo le coordinate, scusa, vabbè, comunque. Vabbè, continuate, ciao ciao. Ah, aspetta, non ti buriare subito. Attento Fabrizio, Fabrizio Taranto, se copi Marco con i 10 watt dell'apparato, cambio. Marco bellissimo, brillante, sempre causa propagazione, mi fai da 1 addirittura a 7, quindi ti ascolto, per il momento ti ascolto, avanti per te Marco. Per te 5-8, 5-8 radio splendida, vai Gianni. Che sto andando circa una trentina di watt, niente di più, dall'apparato, tutto qua, un vecchio CB. Ancora per te Marco il cambio. Gianni, vai tu. Gianni si è buriato. Franco vai tu? Capo, sì che ci sono. Capo, se non erro il tuo nominativo, l'ho sentito. Franco a Sorso, sempre in provincia di Sassari. Niente, vedi un po' se a me mi fai 7-9 radio 5. Perfetto, ti ringrazio, ho copiato bene il tuo nome, però anche tu arrivi bene, 7-9 lo stesso radio 5, perfetto. Ripeto, non vado carico, però insomma alla fine ci ascoltiamo, la propagazione è buona, si è aperta almeno nei nostri confronti, tutto qui. Ancora per te il cambio. Capo. Pensavo che potessi arrivare lì con pochi watt, lo pensavo. Ok, Marco, io vi lancio a te, poi mi dici che c'è frequenza ancora. Ciao Fabrizio da Taranto, Giovanni Stanco dalla città di Sassari, buonasera e ben sentito, cambio. Sì Giovanni, ben sentito, bellissima propagazione, vi ascolto veramente, una fotografia a colori, come se stesse qui, tutti quanti. Mi fa piacere ascoltare gli amici dell'isola, tutto qui, dell'isola del nord, perché abbiamo anche l'isola del sud, va bene, va bene. Ragazzi è stato un piacere, grazie per il contatto 73, ci riascolteremo sicuramente alle prossime, causa sempre la propagazione. Mi ha fatto piacere, arrivate tutti bene, ok, tutti forti, la propagazione è buona. Vi auguro un buon proseguimento di questione, grazie per avermi fatto entrare, 73 da parte mia, Fabrizio in Taranto, ciao ciao. Ciao Fabrizio, buona serata, ciao, ci sentiamo, doppio runti super, super cordialità. Capo lei, ciao. Fabrizio, ciao Fabrizio, ci sentiamo nel prossimo, sperando che sia ancora migliore la propagazione. Ciao Franco, la sorte ti saluta. Avanti Marco. Ciao Fabrizio, buona serata, buona DX, buon tutto, ci risentiamo le prossime. Ancora ragazzi, ciao ciao. Ciao Taranto, la città del ferro ti saluta, ci sentiamo tutto quanto alla prossima se coincide. Riprendi Giovanni, Passamona, cambio. Beh ciao, ciao, ci sentiamo, dai, saluto a tutti, sono Lubia, ciao ciao. Ma comunque, anche per te. Ciao già. Benissimo qua. A troppo se a troppo se vuole un ragazzo ci sono i ragazzi. Porca miseria, oggi c'è tutto il sud Italia, Questo è il bip dei CRT, ci sono vari bip, questo è il, diciamo il, l'unico passabile, due sono passabili, dai. Quello è un pipiriolo. Sì, no, più che altro è per far capire in propagazione che sto mollando la portante, sai, c'è molto QSB, segnale sale e scende in continuazione, tipo la canzone di Sandro, sale e scende la marea, na na na na na na. Andà bene Mela, d'accordo. Io, come al solito, non mi avete rilanciato. Oh, ma Natalino, ma prima li avevi contattati? È che ogni tanto ne entrano diversi, uno era da Bari, uno da Polignano, uno da Taranto, che c'ho pure parenti lì a Taranto, magari pure parente mio, non lo so, eccetera eccetera, dai. Lui c'è anche Giovanni Passanova, ragazzi, non ve lo dimenticate. No, non ti preoccupare un attimo che sto facendo, sto sistemando alcune cose, dai, faccio bianco e anzi ne approfitto per salutare tutti quanti, grazie della compagnia che mi avete tenuto, ciao, grazie, arrivederci. Ciao, allora ci sentiamo, ciao, buonasera. Ciao Giovanni, ce la sentiamo le prossime.